Chi controlla la locomotiva controlla il mondo. Senza quella non siamo niente. In passato le rivolte sono fallite perché non l'hanno raggiunta. Salve a tutti e bentornati sull'Arcadia. Io sono Gabriele e so che abbiamo già parlato di verità, ma voglio, diciamo, dire due o tre cose a riguardo. Soprattutto ora c'è stato le votazioni, le elezioni, come saranno. Sinceramente so già come sarà, quindi non mi stupisco di niente. Dice, come fa a sapere come sarà? Non puoi. E invece lo so, perché basta uno, quando uno è abituato a guardare le cazzate, poi dopo le vede, se ne rende conto. Ma a prescindere da quello che io ormai ho passato i 30 anni, non è tanto. Sinceramente poche volte mi sono interessato della politica, perché ero più preso alla, diciamo, a cercare di campare per conto mio. Quindi figuriamoci se avevo tempo di pensare a chi andava a votare o altro. Quindi verità, perché questo è un mio parere, è mio personale parere. Sicuramente molti saranno in disaccordo, ma sapete cosa? Peggio per voi. Io ci ho provato a dirle cose come stanno. Ci ho provato, si è provato in tanti dicono le cose come stanno. Nessuno vuole ascoltare, nessuno gli interessa. Quindi io continuo a dire le cose come stanno. Se voi volete continuare a pensarla come volete voi, come vanno insegnato, a voler continuare a sperare che qualcuno un giorno arriverà a salvarvi, mi dispiace deludervi, ma questa è una cosa che non avverrà mai, mai. Io so più per le vecchie maniere, andare in piazza con le torce e il forcone e vedere chi ha ragione o torto, vedere chi è che davvero cambia le cose. Perché quando questa è la finta libertà di scelta, l'illusione della scelta. Andiamo, come ho già detto, perché ci sono tutti questi partiti, perché ci sono tutti questi politici, tutti questi politicanti, per dare a ognuno, a ogni classe sociale, a ogni situazione che c'è fuori nel paese, dare a ognuno una speranza di cambiamento, una speranza di miglioramento. E ogni pupazzo che cambia si sta sempre peggio. Nessuno ha mai fatto niente. Io vedo la gente su Facebook, su internet, che discute e dice del, che fa vedere ognuno, no? E non mantiene le promesse fatte. Ma alla fine chi ci rimette? Chi è che ci rimette? Quante volte bisogna farsi pigliare per il culo per rendersi conto che dicono un sacco di cazzate? La verità, chi è che dice la verità? Chi è che è sincero? Chi è che davvero fa qualcosa per la gente? Chi è davvero fa qualcosa per il paese e non per i soldi? L'avete mai visto in qualcuno? L'avete mai visto qualcuno che fa davvero le cose per le persone e non per se stesso e non per i soldi e non per ricchisse alle spalle degli altri? Io non m'ha visto. Dice, ma allora a che credi? Come fa a cambiare le cose? Ve l'ho detto come cambia le cose. In piazza. La gogna per chi ha tradito il paese. La gogna per chi ha tradito i suoi cittadini. La gogna per chi ha promesso e non ha mantenuto, per chi ha mangiato sulle spalle di chi stava male, per chi ha mangiato sui sogni, sulle speranze delle brave persone. La gogna. Una volta al re e gli tagliano la testa. Quindi continuiamo a sperare. A sperare che arrivi il Salvatore, che arrivi qualcuno e migliori le nostre condizioni di vita, le nostre condizioni sociali, che ci dia un po' di soldi in più, che ci abbassi le tasse. No, l'unica cosa che si abbassa è lo stipendio. L'unica cosa che ci si guadagna è che ci tolgano diritti che i nostri predecessori hanno guadagnato con il sangue, con la pelle, con le lacrime, con il dolore, con la sofferenza. C'è chi ha lottato e ha dato il sangue, la vita, per arrivare a determinati diritti, per avere determinate conquiste. No, no, oggi no, andiamo a votare, crediamo e aspettiamo che arrivi, che il Salvatore che crediamo di aver scelto faccia qualcosa, perché è una faccia nuova. E poi dopo, quando ci rimaniamo male perché non ha fatto niente nessuno e le cose sono peggiorate e basta, e l'unica cosa che ci viene dato è un mucchio di scuse: ma il governo prima, da quando sono nato sento, il governo prima ci ha lasciato un troiaio, come si fa, come si poteva fare, noi più di così non ci si immaginava una cosa di genere. Ma scusa, in questi 10 anni in dove stavo, ciccio? Non so, me ne sono accorto io che ero chiuso in fabbrica, te che tu eri ostia a sedere nelle poltroncine a fare le interviste in televisione, i che ha guardato finora. Oh, allora, diciamo le cose come stanno, perché nessuno, sentite il politico e vi ragiona e vi promette un sacco di cose. Ma sperare che un altro schiavista prenda il posto dello schiavista che c'è ora non è che vi farà star meglio, è sempre uno schiavista. Cambia la persona, cambia la faccia, cambierà la giacca, come parla. Sempre uno schiavista rimane. Se un vi toglie le catene e vi rende liberi, è uno schiavista, è il padrone. Allora, oggi ce l'ho così, quindi la lascio così. Se la vogliono mandare, la mandano, perché io l'ho detto, io dico la verità. La verità, secondo me, sarò pazzo, sarò schizzato. Pensate quello che volete. C'è qualcuno che capisce che Dio, c'è qualcuno che c'è passato per la stessa strada che ho passato io. C'è qualcuno che guarda le cose davvero. Allora, vogliamo cambiare le cose? Iniziamo a dire le cose come stanno. Perché io in fabbrica, bene, quando, perché io praticamente ho lavorato, penso, solo in fabbrica, chi mi conosce lo sa. E quando tu ci tieni alla tua vita, alla tua salute, e lo fai presente a chi dovrebbe fare in modo che la tua salute venga presa di conto, venga tenuta di conto, e invece ti diano lavora, testa bassa e lavora, stai zitto. Oh, ma siamo davvero dopo il 2000 o siamo tornati quando c'era la tratta degli schiavi? No, perché mi sembra che sia così. Ma gente che lavora di notte senza riscaldamento, io ero senza riscaldamento, fuori, ai freddo, ai ghiaccio, quando invece ci doveva avere riscaldamento. No, invece no. Niente riscaldamento, perché? Perché si faceva come fanno i barboni per strada. Ecco come si faceva, eppure si era a lavorare dentro una fabbrica. Sarà possibile dentro una fabbrica bisogna accendere i bidoni? Co pallet o pancali? Per riscaldarsi, perché sennò si moriva di freddo? Io me le ricordo le volte che sono tornato a casa che io mi sentivo più diti dei piedi. Non è piacevole. Perché succede questo? Perché succede questo? Io non siamo, uno dice, ma nel sud le condizioni, no, questo viene da giù a su, avviene ovunque. Mi fa schifo vedere la gente, perché ero sempre arrabbiato con tutti? Perché vedevo la gente che se ne fregava e non gliene fregava niente a nessuno. Chi doveva proteggerci non ci proteggeva, anzi se ne fregava i c***o. Ci si puliva i c***o, quello che si diceva. La gente, io ho visto il cambiamento della gente. La gente si arrendeva, la gente senza speranza, che smetteva di scioperare, smetteva di anche solo di accennare a propri diritti. piegava il capo e a diritto. Anche se una cosa non poteva fare per legge, per 10.000 cose. No, chi se ne frega, bisogna... va fatta. Va fatta perché siamo in crisi. Chi se ne frega delle regole, chi se ne frega della mia salute. Chi se ne frega della salute e della sicurezza di quell'altri. Non lavoravo solo io, lavoravo in diverse fabbriche. Posso prendere un altro esempio. E come me ci sono tanti ragazzi, io iniziai a lavorare a 16 anni. Ma come l'ho vissuta io? Io sono stato schiavo. Tutti i lavori che ho fatto sono stato uno schiavo, insomma stavo libero. Mai. Chi è libero? Cos'è la libertà? Avete idea di cos'è la libertà? Non credo. Assolutamente no. Non so nemmeno io che è la libertà, forse. Chi è che lo sa cos'è la libertà? Nessuno. Nessuno sa cos'è essere liberi, perché dobbiamo arrivare alla fine del mese, dobbiamo comprare, dobbiamo svegliarci la mattina, dobbiamo tornare a casa tardi la sera, dobbiamo essere arrabbiati, avercela con gli immigrati, con i barboni, con chi è peggio di noi, avercela con chi la pensa in maniera diversa, con chi prova a dirci le cose come stanno, perché vanno di fuori a quello che mi hanno insegnato per tutta la vita e quindi è un idiota. Sono un idiota, io per tanta gente sono un idiota. Sono uno che è partito per il cervello. E perché? Perché questa cosa? Come me, tanti altri ragazzi, tante altre persone. Ma invece di arrendermi so qui e dico le cose come stanno. Tanto non piace, sicuramente non piacerà a nessuno, ve lo dico, ma è la verità, è così. In un altro lavoro invece il padrone mi aveva, perché si chiama così, è il padrone, non è il datore di lavoro, è il padrone. Il padrone mi aveva, diciamo, promesso che dovevo fare determinate cose. Va bene, allora vengo a lavorare per te invece che andare da quell'altro, mi piace di più. Quello che tu mi dici te, un po' come fanno politici, no? Te tu mi prometti questo, a me mi piace, voto per te. Quell'altro mi prometteva altre cose, mi piacevano meno e quindi altre persone hanno votato per lui, io ho votato per quest'altro. Come mi sono ritrovato alla fine? Che di tutto quello che mi aveva detto non ho fatto nulla. Mi è toccato, mi sono fatto il culo per quattro. E alla fine... il bello è che alla fine sono stato anche irritato perché mi sono impegnato, capito? E quanti di voi si sono ritrovati nella stessa situazione, che non possono dire nulla perché sennò vengono mandati via, anche se vedano che alcune cose non vanno bene, non ci possono essere, non dovrebbero esserci, però ci sono, vengono fatti. Allora a che crediamo? Iniziamo a credere intanto in noi stessi. Iniziamo a dire basta sperare. Dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere nel mondo. Volete vedere la verità? Volete le persone sincere? Siate sinceri. Dite la verità, comportatevi come si comporta una persona, non come si comporta uno schiavo. Iniziate a pretendere tutti insieme, a pretendere quello che è vostro di diritto. Invece farvi prendere in giro, perché si tratta di questo. Veniamo presi in giro dalla mattina alla sera, perché alla fine non importa chi andrà su, le cose andranno sempre peggio. Non c'è nessuno che dice la verità, nessuno. Riflettete e se mi avete ascoltato finora vi ringrazio. Io vi chiedo scusa, ma avevo bisogno di sfogarmi, perché quando ti danno dell'idiota dalla mattina alla sera, dello stupido, e tutti si arrabbiano con te per quello che dici, perché dici le cose come stanno, a volte ho bisogno di sfogarti. Io mi sfogo qui, perché qui non mi sento giudicato, anzi, tutto il contrario, mi sento libero di potermi esprimere, quindi ringrazio tantissimo Radio Big World, ringrazio tutte le persone che ci sono dietro, tutti quelli che mi hanno permesso di poter tirar fuori questa cosa. spero di, non lo so, ispirare e dare coraggio alla gente, alle persone, a chiunque. Non siete soli. Io so che non sono solo, mi sento solo in questa battaglia, perché è una battaglia, è una guerra. La guerra non è mai finita. Quindi grazie a Radio Big World, grazie a voi. E per oggi è tutto. Mi vo a rilassare. Ciao, alla prossima. Questo è un gesto molto deludente. C'est trop décevant. È una muy grande desilusión. C'è manama. No, così ci vuole troppo. Ho solo 7 minuti. Voi vi mettereste una scarpa in testa? Naturalmente non lo fareste mai. Le scarpe non sono fatte per la testa. Le scarpe appartengono ai piedi. E in testa si mette il cappello. Il cappello sono io. Voi siete le scarpe. Io appartengo alla testa. Voi appartenete ai piedi. Così è. Questa è la realtà. Quindi, come in principio, io appartengo alla testa. Voi appartenete alla coda. Rimanete al vostro posto. Siate scarpe!